Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Scacciando i rimpianti, così inadatti alla cosa in questione, Fielding portò a termine l'ultimo compito della giornata, precipitandosi dai suoi nuovi alleati. Era lieto d'averla fatta finita col circolo, perché là gli sarebbero arrivate notizie e voci che poi avrebbe riferite in città, ed era lieto che gliene mancasse l'occasione. Avrebbe rimpianto il biliardo e le rare partite di tennis e le quattro chiacchiere con McBride, ma in realtà questo era tutto. A tal punto viaggiava senza bagaglio. All'entrata dei bazar, una tigre fece impennare il suo cavallo. Un ragazzo vestito da tigre, il corpo striato di nero e di giallo, una maschera sulla faccia. Le celebrazioni del Mohorram andavano avanti. C'era un gran rullare di tamburi, ma la città pareva tranquilla. Fielding passò il resto della serata col Nawab Bahadur, Hamidullah, Mahmud Ali e altri della Lega. Anche la loro campagna andava avanti. Era stato mandato un telegramma al celebre Amrit Rao, che aveva risposto accettando. Bisognava chiedere di nuovo la libertà provvisoria, impossibile che fosse negata ora che Miss Quested era fuori pericolo. La discussione fu seria e ragionevole, ma disturbata da un gruppo di musicanti girovaghi che avevano avuto il permesso di suonare dentro la proprietà. Ognuno di loro aveva un grosso vaso di terracotta pieno di sassi e lo scuoteva in su e in giù al ritmo di un canto triste. Ossessionato da quel rumore, Fielding propose di mandarli via, ma il Nawab Bahadur lo vietò. Disse che quei musicanti venuti a piedi per miglia e miglia potevano portare fortuna. Nella tarda serata, Fielding provò il desiderio di parlare col professor Godbole dell'errore tattico e morale che aveva commesso mostrandosi sgarbato con Hislop e di sentire la sua opinione. Ma il vecchio era andato a letto e un paio di giorni dopo se la svignò indisturbato alla volta del suo nuovo impiego. Quell'uomo aveva sempre il genio di svignarsela. L'agenza di Adela nel bungalow di McBride durò parecchi giorni. Si era buscata una leggera insolazione e per di più si dovettero estrarle dalle carni centinaia di spine di cactus. Miss Derek e Mrs. McBride la esaminavano per ore e ore con la lente d'ingrandimento, scoprendo sempre altre colonie, sottilissimi filamenti che, a trascurarli, potevano spezzarsi ed entrare nel sangue. Lei rimaneva passiva sotto le loro dita, che sviluppavano il trauma cominciato nella grotta. Fino a quel momento non aveva fatto molto caso se la toccavano. I suoi sensi erano di un'inerzia anormale e il solo contatto che lei riuscisse a prevedere era quello della mente. Ora invece tutto si era trasferito sulla superficie del suo corpo, che cominciava a vendicarsi e a farsi sentire in maniera malsana. Le persone le parevano tutte molto simili, con la sola differenza che alcune si avvicinavano e altre restavano lontane. Nello spazio le cose si toccano, nel tempo le cose si separano. Andava ripetendosi mentre le estraevano le spine, col cervello così fiacco che non riusciva a stabilire se quella frase fosse filosofia o gioco di parole. Erano buoni con lei, eccessivamente buoni, anzi, gli uomini troppo rispettosi, le donne troppo comprensive, mentre Mrs. Moore, l'unica di cui avesse bisogno, restava lontana. Nessuno capiva il suo malessere, nessuno sapeva perché oscillasse tra un rigido buonsenso e l'isterismo. Cominciava un discorso come se non fosse successo niente di speciale. «Sono entrata in quell'orribile grotta», diceva seccamente. «E ricordo che ho grattato la parete con l'unghia per svegliare la solita eco. E poi, come ho detto, ecco quell'ombra, quella specie di ombra in fondo al corridoio che mi bloccava. A me è sembrato un secolo, ma in tutto deve essere durato non più di 30 secondi. Io l'ho colpito col binocolo, lui mi ha trascinata per le cinghie da un capo all'altro della grotta, la cinghia si è spezzata, io sono corsa via. Questo è tutto. In realtà non mi ha nemmeno toccata, tutto sembra talmente assurdo». Qui gli occhi le si riempivano di lacrime. «Naturalmente sono sconvolta, ma riuscirò a superarlo». E allora sopravveniva il collasso. Le donne la sentivano come una di loro e piangevano con lei, e gli uomini nella stanza accanto mormoravano «Dio santo, Dio santo!». Nessuno si rendeva conto che per lei le lacrime erano una viltà, una degradazione più insidiosa di tutto quello che aveva subito nei Marabar, una negazione delle sue vedute progressiste e della naturale onestà della sua mente. Adela cercava sempre di riflettere sull'episodio, di ripetersi che non era successo niente di grave. C'era il trauma. Ma che cos'è, in fondo? Per un poco la sua logica la persuadeva, poi riudiva l'eco, piangeva, si dichiarava indegna di Ronnie e sperava che all'aggressore toccasse il massimo della pena. Dopo una di queste crisi, provò il desiderio di andare nei bazar e di chiedere perdono a tutti quelli che incontrava, perché sentiva confusamente che avrebbe lasciato il mondo peggio di come l'aveva trovato. Sentiva che quella era la sua colpa, finché l'intelletto, ridestandosi, non le faceva capire che questo era un errore e non la sospingeva di nuovo nel suo sterile labirinto. Springer, stannar, letar efter, tvivlar, skakar, tror, fortskrider. Se almeno avesse potuto vedere Mrs. Moore. Anche la vecchia signora era stata indisposta e non si sentiva di uscire, diceva Ronnie. E così l'eco ingigantiva, infuriando su e giù come un nervo dentro il suo potere uditivo, e il rumore nella grotta, così trascurabile dal punto di vista intellettuale, si prolungava sulla superficie della sua vita. Lei aveva dato un colpo sulla parete levigata senza nessuna ragione, e prima che la risposta svanisse, egli l'aveva seguita, e il punto culminante era stato la caduta del binocolo. Il suono le era sgorgato alle spalle quando era fuggita e ancora avanzava come un fiume che allaghi poco per volta la pianura. Soltanto Mrs. Moore poteva farlo rifluire sino alla sorgente e sigillare la diga spezzata. Il male era in libertà. Lei poteva perfino sentirlo entrare nelle vite degli altri. E Adela trascorreva i giorni in questa atmosfera di dolore e di depressione. I suoi amici alimentavano il proprio entusiasmo chiedendo olocausti di indigeni, ma lei era troppo angosciata e debole per farlo. Una volta estratte tutte le spine di cactus e tornata normale la temperatura, venne Ronnie per portarla via. Era sfibrato dallo sdegno e dalla pena, e lei avrebbe voluto essere in grado di confortarlo, ma l'intimità pareva la caricatura di se stessa, e quanto più loro parlavano, tanto più si sentivano infelici e imbarazzati. I discorsi d'ordine pratico erano i meno penosi, e adesso Ronnie e McBride le dissero una o due cose che durante la crisi le avevano tenute nascoste per ordine del medico. Ella apprese per la prima volta i disordini del Mohurrim. C'era stata quasi una sommossa. L'ultimo giorno di festa, la grande processione aveva lasciato il percorso ufficiale cercando di penetrare nel centro amministrativo. Un cavo telefonico era stato tagliato perché impediva l'avanzata di una delle grosse torri di carta. McBride e i suoi agenti avevano ristabilito l'ordine, un ottimo lavoro. Poi passarono a un altro argomento, e questo le era molto penoso. Il processo. Lei doveva presentarsi in tribunale, identificare l'imputato ed essere sottoposta a controinterrogatorio da un avvocato indiano. «Mrs. Moore, può stare con me?» fu tutto quello che Adela disse. «Ma certo, e ci sarò anch'io», rispose Ronnie. «La causa non sarà presieduta da me. Loro ci si sono opposti perché io sono parte interessata. Si farà qui, a Chandrapur. A un certo momento avevamo pensato che sarebbe stata discussa altrove.» «Ma Miss Quested capisce che cosa significa tutto questo», disse tristemente McBride. «La causa sarà presieduta da Mr. Das.» Das era l'assistente di Ronnie, un uomo gentile e intelligente, e messo davanti alle prove non poteva arrivare che a una conclusione. Ma che dovesse giudicare una ragazza inglese aveva suscitato un violento sdegno nel centro amministrativo, e in proposito alcune signore avevano mandato un telegramma a Lady Mellanby, la moglie del governatore della provincia. «Devo pur comparire di fronte a qualcuno.» «Ecco, così va presa la cosa. Il coraggio non vi manca, Miss Quested.» Divenne molto amaro su quegli ordinamenti che chiamò i frutti della democrazia. In altri tempi una donna inglese non sarebbe mai stata citata in giudizio, e nessun indiano avrebbe osato discutere dei suoi affari personali. Essa avrebbe fatto la propria deposizione, dopo sarebbe venuta la sentenza. Si scusò con Adela per la situazione del paese, col risultato che lei ebbe uno dei suoi improvvisi e brevi accessi di lacrime. Ever so long. Ever so long. Sink into your eyes, and all I see, love is an ocean, and you for me. Sing into your eyes are all I see. Your love is an ocean. An ocean refuses no river. Ever so long. An ocean refuses no. Durante la crisi, Ronnie si aggirava desolato per la stanza, calpestando i fiori che così inevitabilmente coprivano il tappeto di cashmere o tamburellando sull'ottone delle coppe di Benares. «Mi capita sempre meno di giorno in giorno. Tra poco starò benissimo», disse lei soffiandosi il naso e sentendosi orribile. «Ho solo bisogno di avere qualcosa da fare. Ecco perché continuo con questi ridicoli piagnistei». «Non c'è niente di ridicolo. Noi vi troviamo meravigliosa», disse il poliziotto con grande sincerità. «Ci dispiace soltanto di non potervi aiutare di più. Che vi siate fermata qui, in un momento simile, per questa casa, è un grandissimo onore». Fu sopraffatto anche lui dalla commozione. «A proposito, durante la vostra malattia è arrivata una lettera per voi», continuò. «Io l'ho aperta, che da parte mia è una strana confessione. Me lo perdonate? Siamo in circostanze così speciali. È di Fielding». «Perché? Dovrebbe scrivermi?» «È successa una cosa molto spiacevole. La difesa l'ha tirato dalla sua». «È uno stravagante», disse Ronnie. «Voi la prendete così», replicò McBride. «Ma si può essere stravaganti senza diventare villani. Sarebbe meglio che Miss Quested sapesse come si è comportato con voi. Se non sarete voi a dirglielo, sarà qualcun altro». E lui glielo disse. «Non occorre soggiungere che ora è il caposaldo della difesa. È l'unico inglese giusto in mezzo a un'orda di tiranni. Riceve deputazioni dai bazar e tutti insieme masticano betel e si spalmano a vicenda profumo sulle mani. Non è facile penetrare nella mente di un uomo simile. I suoi studenti sono in sciopero. È tale il loro entusiasmo per lui che rifiutano di studiare. Non fosse per Fielding, non ci sarebbero stati i disordini del Mohurram. Ha fatto un danno gravissimo a tutta la comunità. La lettera è rimasta qui un giorno o due, in attesa che voi vi rimetteste. Poi la situazione si è fatta così grave che ho deciso di aprirla, nell'eventualità che ci fosse utile». «E lo è?» disse lei debolmente. «Niente affatto. Fielding ha solo la sfacciataggine di insinuare che vi siete sbagliata». Fosse vero. Adela lesse velocemente la lettera, che aveva un tono cauto e cerimonioso. «Il dottore Aziz è innocente», lesse. Poi la voce tornò a tremarle. «Ma pensa come si è comportato con te, Ronnie, quando per colpa mia tu dovevi già passarne tante. È stato scandaloso da parte sua. Caro, come posso ricambiarti? Come si può ricambiare quando non si può dar niente? A che servono i legami personali quando ognuno li alimenta sempre meno? Lo so, tutti quanti dovremmo tornare nel deserto per secoli e cercare di diventare migliori. Io ho bisogno di ricominciare da capo. Tutto quello che pensavo di avere imparato non era che un ostacolo, non era affatto un conoscere. Non sono adatta ai rapporti personali. Oh, lasciamo andare, lasciamo andare. Naturalmente, la lettera di Mr. Fielding non conta. Lui può pensare e scrivere quello che vuole, ma non doveva essere villano con te quando avevi già da passarne tante. Ciò che importa è questo. Non occorre che tu mi sostenga, sono una camminatrice formidabile, perciò non toccarmi, te ne prego. La salutò con grande affetto. Era una donna con la quale non aveva nessuna affinità e la cui amicizia la opprimeva. Adesso avrebbero dovuto stare insieme per anni e anni, finché l'uno o l'altro dei loro mariti non fosse andato in pensione. L'Anglo-India l'aveva legata veramente mani e piedi, e forse era la punizione che lei si meritava per aver tentato di assumere un atteggiamento personale. Umile, ma piena di ripugnanza, Ade la ringraziò. «Oh, dobbiamo aiutarci a vicenda, dobbiamo far buon viso a cattivo gioco», disse Mrs. McBride. C'era anche Miss Derek, citata come testimone al processo. Tanto Mrs. McBride quanto Miss Derek baciarono Adela e la chiamarono per nome. Poi Ronnie la portò via. Era di prima mattina, perché il giorno, con l'approssimarsi della stagione calda, si gonfiava ai due estremi come un mostro, lasciando sempre meno spazio ai movimenti dei mortali. Ronnie disse: «Mamma è così ansiosa di vederti, ma certo è vecchia, non bisogna dimenticarsene. I vecchi, a mio parere, non prendono mai le cose come ci si aspetta». Sembrava che volesse metterla in guardia contro un'imminente delusione, ma lei non ci badò. La sua amicizia con Mrs. Moore era così profonda e reale da darle la certezza che sarebbe durata qualunque cosa succedesse. «Che posso fare per renderti tutto più facile? Quello che conta sei tu», sospirò. «Oh, sei una buona, cara ragazza a dirmi così. Caro, buon ragazzo, tu». Poi gridò: «Ronnie, non è ammalata anche lei?» Ma egli la rassicurò. Il maggiore Callendar non era preoccupato. «Tuttavia la troverai irritabile. E siamo una famiglia irritabile noi. Beh, vedrai tu. Senza dubbio anch'io ho i nervi a pezzi e quando sono tornato dall'ufficio mi aspettavo da mamma più di quanto lei si sentisse di dare. Per te farà sicuramente uno sforzo speciale, però non voglio che questo tuo ritorno a casa sia una delusione. Non aspettarti troppo». Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster,